stesso segnale di quello che stava dormendo russando. Addirittura. Lo stesso segnale. Che cosa avevo visto? Non ne parliamo noi né coreano, né bibi, né bigattini, né tutte malacche. È imbriaco. Abbandonato. mezzo col palo d'ingasso da Capolino, mi sembra. Ma quanti metri è? Sì. Ah, quelli innocenti sono. Sì, già. Ah, il cazzo. E ho pagato un casino lì da Capolino. 30 euro. Hai tu. Io ne ho visto uno da 25, però è troppo piccolo, è troppo stretto, non va bene per questa antenna, capito? Ma loro mi stavano dicendo di prendere quello che ormai Stefano aveva già preso, quello che si allunga, si allunga. È il telescopico, però bisogna trovarlo con il diametro esatto, perché ce l'hanno ma sono a diametro fine, sono da 30, invece se tu vuole da 40 un po'. No, ecco, Stefano l'ha preso, è grosso, non so da quant'è, comunque è abbastanza grosso. Anch'io prima ce l'avevo innocenti, da sinistra ce l'avevo. Va bene, dai, adesso vedo, perché voglio allungarla, perché c'ho un radiale che tocca qua sulla pellicola del tetto, quindi lo voglio tirare su, per arrivare a livello del tetto, per vedere un po' di sinistra. Io è quasi 4 metri, dai, più o meno, che l'ho tirato su. Anch'io lo voglio portare su, almeno 4-5 metri voglio portarla su. Io c'ho, allora, come base c'ho, come piantone, dai, un paio di quelli che usano i cani e i campi, un altro un amico, e poi ho messo un altro che innesta l'antenna, sarà un metro, allora sono 2,5 metri il piantone, e 1,70 metri è quello lì che innesta la matta qua, più o meno siamo a 4 metri, ma lì è basso l'antenna, infatti sto pensando di comprarlo lì ad Appuzzaro, ce l'ha 6 metri, 50 euro costa, bello, è un massiccio zingato, telescopico. Io però più da cosa l'ho visto da fata, però è da 30, capito? E saranno 26, sono due pezzi da 2 metri, sono tre pezzi da 2 metri, però costa 25 euro, capito? Però è troppo fine, è da 38, da 30 cioè. No, questo qua. Questo qua è, allora, l'innesto è, mi sembra che sia 40, se non siamo sbagliati, giusto, 40? 40 è l'innesto, capito, che 40 deve essere almeno per l'innesto dell'antenna. Questo qua fa 40, 45, 50, ma bello, eh. Ecco, da 50, aspetta, non so se è 50, o 55 euro, ma un bel palo, è bello massiccio, ma sto pensando di comprare quello io. Però io devo fare un altro lavoro, devo aggiungere il capo, se no non mi basta. No, io per il capo già ce l'ho ancora, capisci, ne ho ancora un po'. Però quanto è alto il pezzo? Ci sono 3 pezzi da 2 metri. Allora, c'è quello che andrebbe bene, dai. Se sono 3 pezzi da 2 metri fanno pezzo. Auguria, ma io giocavo grosso però, giocavo grosso. Capo grosso anch'io c'ho. Io c'ho la caccetto, e costa 3,50 al metro. Eia, ce l'ho anch'io, ce l'ho dalla vecchia stazione anch'io, avevo tutto conservato, ho tutto ripulito e messo su. Strano, sta poco questa caccetto, mi sarà due anni in giro di vendita, l'ho fatto da poco. Allora è più grosso di quello che ho io forse, io non me lo ricordo, comunque io ce l'ho grosso. No, più grosso di questo non ce l'è, lui è doppia cassa, tu c'hai l'RG8. Bravo, sì, esatto. Poi costa 1 euro al metro, tra 1,20 euro, 1,50 euro. Questo che ho io, ma non è gasto, non mica l'ho comprato io. Però mi hai spesi. Oh, vabbè, avendo la possibilità li avrei spesi. Non me l'hanno regalato, doppia cassa, bello, eh. Ma il capo, la massa perdita, ma anche l'RG8 è buono, dai. Io ce l'ho già 15 anni, ce l'ho, 15-16 anni, eppure non si è fatto mai niente, adesso l'ho ripulito e l'ho messo giù. Gappa, andà bene, no, già arrivi bene qua, però non c'è problema, ma te la baracchina normale? No, c'era un Lafayette, quindi per Lafayette. Lafayette? Quello mai inteso, dai. Quanti canali c'è? 40. E poi c'è la Fayette, poi bisogna avere, c'è la mascherina e la Fayette, però bisogna avere se la Fayette il mio. Sicuramente il mio è un Tornado, 4,5. Ah, esatto. scatto, la tua faccia di scatto. Grazie, vediamo un po' se riusciamo a Rita a farle comprare quello che sto dicendo io. La facciamo uscire bene a Rita. E lì Villi. Luca! Eia, il mio è Natalino, dai, c'è anche il Benito, gli avevamo fatto modificare. Già l'ho visto quella di Benito, Benito ha bisogno di sollevare la penna un poco perché c'è appoggiata a un fico, capito? Non lo so, ma lo stavo dicendo io. C'è un attimo, mi stavo chiamando dall'altra parte. Sì, sai che è ritornato. Senza non si capisce nulla. Attento in Spagna, mi ascolta qua. Qui Nord Sardegna. No. Tu dove sei? Attento mi hermano, vamos a ver se va a escuchar Italia, adelante. Attento compañero, se escuchi l'isola di Pasqua che chiama, cambio. L'isola di Capodanno. E bello, ciao. Ciao Robert. C'è anche Franco e Rita qua. Non è andato in canale. Ciao Rita, ciao Franco, non li ho sentiti. Ciao, buonasera a tutti. Ciao Franco, ciao Roberto. Ciao Roberto, una stessa arrivava a passeria. Questo che sta sovrammodulando, Rita e chi è l'altro che c'era sotto? Ciao Seriale, 9 più 20, questo cos'è? Non ho capito se c'è il servo o cos'è? Coreano, è un real questo, Roberto, già ma dove rispondi? La mejor de tu vida me la... Se te compri a compra. Mira, ormai la gente in grazia di droga, lui dovrà sempre embriaco. Ma si musica epa. Comunque qua è 9 più 20, mi sta arrivando a... Vabbè, non va adesso, era questo passaggio di meno, era 9, ma poco fa è arrivato a 9 più 20. Oh. Attento, cos'è, Portogallo? Mi pare portoghese a me, o in Spagna. Attento in Spagna se scucci l'Italia, operatore Roberto, cambio. La Vanella da Portogallo, chi sei tu? Avanti Portogallo. Basta parlare agli altri che c'è una cultura che è più grande di te. Avanti Luca. Dai, riprendi tu la linea. Aiutalo. No, non molla questo, prima era addormentato, stava russando Robè, adesso si sveglia e sta cantando. Le basse di cosa? Di umore buono, Sulla lira, Adesso te era coreano. O portoghese. Ah, boh, è di vita. Corea, attento Corea, ascolti Italia, Italia. Villa della Maddalena. Ha scacciato le pene, questo qua. Passiamo al 10, è possibile, gappa, perché vi passa Rita, Arriva quattro e più di voi qua. Ehi, ha passato 10 Luca. Vai 10 Fra, vai 10 Robe, vai 10 Cappa. Se ce ne sono una trentina o 50 è blu drutto. Ma banchetti c'hanno allora? Non lo posso, io avevo sentito nella pubblicità oltre 200 espositori, vado di lì, ci sono quelli che vendono le caramelle, quelli che vendono il cioccolato, quelli che vendono i cazzuffini, vendono mobili, macchine, di interessante non c'è proprio niente. Come che va a Piazza dei Segni? Un po' meglio perché è un po' più ordinato, ma la stessa cosa che vai alla fiera di Piazza dei Segni, al mercatino. Riprendi lì. Ehi, Roberto, ci sentiamo nelle prossime, dai. Ciao Franco, ciao Palmerio, ciao Natalino, alle prossime, ciao ciao. Ehi, ciao Ria, alla prossima, dai. Dai Natalino. Sono solo in vita con buon proseguo di serata, ce la riascoltiamo tutte le migliori, almeno da questa parte ti ha salutato. Ciao! Ripa, ciao, tanto adesso c'è la partita, quindi andiamo a vederci anche noi la partita, dai. Vabbè, se ci sentiamo alle prossime, dai, salutami a Natalino e salutami a Palmerio. Anch'io lo faccio qui RT perché mi devo guardare la partita, devo preparare il tutto e prima la guardo. Ciao Roberto. Sì, ciao Franco, anche la parte mia, buona serata, buon proseguo. La partita comunque è alle 9, non è alle 8 e mezza, ricordatevi. Vabbè, ma devo preparare un po' di roba. No, questo lo dicevo perché anche io ho convinto fosse alle 8 e mezza, invece è alle 9, perché giocano in un altro fuso orario distanti da noi. Perché non sono a Genova? No, non giocano fuori, anche con la Perugia, non giocano fuori. No, mi sembra che sono a Genova, insomma. Sicuro? Non lo sapevo, non lo vita. Mi sembra di sì, beh, per la tormenta perché giocano a Genova. Tu, non lo so, ma io non giocavo niente nel senso. Chi è arrivato qua? Mi sa che sei rimasto solo, dai. Vabbè, io sto chiudendo, ciao ciao. E io qua ti sentiamo, adesso faccio una carrellata nei canali, se c'è qualche collegamento, sono anche io mi preparo all'evento. Dai, ci sentiamo, buon proseguo e buona giornata per domani. Vabbè Roberto, allora, dai, saluto di mille, che io sono quasi arrivato alla mia abitazione, parcheggio tutto, spero tutto, poi domani se siete su questa frequenza che devo fare un po' di modifiche all'impianto, magari se c'è qualche duro che mi dà qualche controllino, dai. Ciao anche a te Palmerio, buon tutto alle prossime, dai. Se ci sono, se la possibilità te li posso dare anche io eventualmente i controllini. Va benissimo, allora dai, vediamo, io faccio un po' di giro nei canali e vediamo. Ciao a tutti, buon proseguo a tutti. Ma dimmi un po', tu il baracchino in Germania l'hai utilizzato?